دفعنا بنرجعها صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا القانون دولي يا قانون العدل شفنا ولا سلام. Buongiorno Palestina. Durante i 57 giorni di violenta battaglia, nessuna macchina da presa ha potuto avvicinarsi al campo di Tal al-Zatar. Le testimonianze della popolazione, dei combattenti e dei responsabili politici, militari e sanitari del campo sono state raccolte alla fine di agosto 1976. Queste due frasi precedono i titoli di un film, Tal al-Zatar, La collina del Timur, dei registi Mustafa Abu Ali e Jean Chamoun. A questo film, Monica Maurer, regista e documentarista tedesca, che oggi incontriamo per un'intervista, ha dedicato buona parte delle sue energie affinché la memoria storica di uno degli episodi più atroci ed eroici del popolo palestinese non venisse perduta. Monica Maurer è membro del consiglio direttivo dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio di Roma, nonché curatrice di numerosi festival ed eventi cinematografici in diversi paesi. Nella sua formazione culturale ci sono studi di sociologia, scienze della comunicazione, giornalismo. Monica Maurer è una donna che fin da giovanissima ha capito che si deve scegliere da che parte stare. Il suo, infatti, è un cinema militante. Prima di realizzare film in Libano e Palestina, ha trattato temi di immigrazione, di controinformazione. È stata in Cile al tempo di Salvador Allende, durante le sollevazioni popolari, ed era giovanissima quando ha iniziato ad interessarsi al mondo arabo al tempo della guerra di indipendenza algerina. In Italia ha lavorato anche con registi cosiddetti famosi, quali Zavattini, Bertolucci, Carmelo Bene, al quale la futura assistente alla regia del film Salomè ha realizzato anche un film biografico. Ma non era questo il suo mondo e l'ha presto abbandonato per dedicarsi completamente al cinema militante. Negli ultimi anni, tra le altre cose, con il contributo di un'altra regista, Emily Jassir, ha restaurato ciò che era stato girato in Libano e la copia araba del film Tal al-Zatar, che era andata persa, rubata e distrutta a Beirut nel corso dell'invasione del 1982. Sono state digitalizzate circa 33 bobine del documentario. Progetto di Monica Maurer e dei suoi collaboratori, registi e archivisti, è la realizzazione di un archivio nazionale del cinema palestinese, progetto che la regista vorrebbe vedere realizzato, soprattutto per le nuove generazioni che non conoscono questa parte importante della storia della Palestina, perché, come lei dice, non c'è futuro senza memoria. In questa puntata ascolterete musica e brani tratti da alcuni film realizzati da Monica Maurer e non solo. Nel blog troverete tutte le indicazioni utili alla ricerca dei film nell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio di Roma. Troverete anche il link al film Nakba. Questo film, realizzato dalla regista tedesca nel 2018, vuole ricordare la data della Nakba e la progressiva occupazione israeliana dei territori palestinesi, che non si è mai conclusa fino ad oggi. Passiamo ora alla rassegna stampa. Buongiorno Palestina, rassegna stampa della settimana. La CEDU, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, censura la condanna inflitta dalla Francia ad alcuni attivisti del movimento BDS ed impone il pagamento di un risarcimento per danni economici e morali. La campagna BDS rientra nel legittimo esercizio della libertà di espressione, così afferma la Corte. Gli attivisti erano stati condannati sulla base di una legge del 1881 a seguito di un volantinaggio fuori da un supermercato. Sulla sinistra israeliana, tre articoli, quello di un italiano, una palestinese e un israeliano ebreo. Il primo è l'articolo di Michele Giorgio sul manifesto del 9 giugno, che titolava «Sinistra israeliana unita dall'annessione». Questo a proposito della grande manifestazione del 6 giugno in piazza Rabin a Tel Aviv, manifestazione per George Floyd e per Iyad Hallak, il 32enne autistico palestinese ucciso senza motivo. Diceva Michele Giorgio, il piano di annessione di Netanyahu ha avuto il potere di assemblare vari pezzi della sinistra israeliana in una manifestazione descritta da molti come un successo. Michele Giorgio riportava anche il giudizio di Orly Noy, che è direttrice del sito progressista israeliano Più 972, la quale dichiara: in piazza Rabin a Tel Aviv si è accesa una luce di speranza. Il secondo articolo, invece, ha un titolo ben diverso. Dice: camuffamento. Come la sinistra israeliana continua a ingannarci con slogan manipolati. E l'articolo è di Rima Nayar, un'attivista, ricercatrice e professoressa in pensione di letteratura inglese dell'Università di Al-Quds, palestinese, e la quale ricorda che questa cosiddetta sinistra israeliana è in fondo una sinistra sionista, che non si è spogliata del concetto di supremazia ebraica e di carattere ebraico dello Stato. Nei fatti, Nayar assimila la sinistra ebraica alle posizioni dello scrittore Abraham Joshua, il quale in un'intervista riportata dal Manifesto circa un mese fa diceva sì alla parità di cittadinanza ai palestinesi in uno Stato unico, ma ribadiva il carattere ebraico dello Stato. Scettico sulla credibilità della sinistra ebraica anche un personaggio autorevole come Michel Warshavsky. Il terzo articolo è invece quello di Meron Rapoport, riportato sul sito Cultura e Libertà, tradotto da Haaretz e riportato anche da Amicizia Italo-Palestinese. Rapoport è giornalista di Local Call, che è un sito esclusivamente in lingua ebraica. Rapoport apprezza dagli interventi in piazza Rabin del 6 giugno il fatto che nella manifestazione la sinistra ebraica presente nella piazza non abbia più usato giri di parole, ma abbia detto chiaramente: qui c'è l'apartheid, e lo abbia chiamato con il suo nome. Si tratta di presenze di sinistra fortemente minoritarie, microscopiche percentualmente rispetto all'elettorato, ma almeno chiare e corrette. Inghilterra. Alcuni dei nomi più importanti e rispettati dell'ebraismo britannico hanno lanciato l'allarme sui piani di annessione del governo israeliano, affermando che una tale mossa sarebbe una minaccia esistenziale per Israele stessa, questo tubocco scucite, pur confermando la fede sionista. Qualcosa finalmente si muove nel mondo ebraico britannico, almeno l'espressione di un chiaro disagio. La convenienza dell'annessione è anche su Assopace Palestina, tradotto da Haaretz con il titolo Questo sarà il pesante prezzo dell'annessione per gli israeliani. Nell'articolo si fanno i conti e si cerca di fare un elenco di problemi, difficoltà e necessità che vi saranno non solo per i palestinesi, ovviamente, ma anche per Israele stesso. Sappiamo però che gli Stati Uniti provvederanno generosamente ai problemi. Su Amicizia Italo-Palestinese vengono citati anche due studi fatti in Inghilterra sugli aspetti di complicità da parte di università e amministrazioni locali implicati in programmi di investimento o partecipazione in imprese che collaborano ai crimini israeliani e che fanno parte della lista nera dell'Unione Europea. Questa sarebbe un'indagine utile da estendere anche agli altri paesi. Stati Uniti, democratici e repubblicani in gara per le armi ad Israele, su Amicizia Italo-Palestinese. L'articolo individua per le diverse scadenze elettorali che vi sono state nel passato quanto abbia contato l'appoggio e soprattutto il finanziamento da parte delle componenti ebraiche americane. Nel sistema politico americano, drogato e condizionato dalla raccolta fondi, dove non c'è né una par condicio né finanziamento pubblico ai partiti, La valutazione è che la percentuale di finanziamento fornita dagli ebrei sia del 50% per quanto riguarda i democratici e del 25% per quanto riguarda i repubblicani. Tempesta sull'AIPAC. L'AIPAC è il Comitato di Affari Pubblici Americano-Israeliano, sempre una cosa che riguarda gli Stati Uniti, riportata da Zeitun. Dunque, l'AIPAC è espressione della lobby israeliana e l'AIPAC ha rilasciato una dichiarazione a sostegno della comunità americana nera 2 settimane dopo l'uccisione di George Floyd, mostrandosi solidale. Ma è If Not Now, che è un gruppo anti-occupazione e filo-palestinese guidato da ebrei, americano, che risponde all'AIPAC e dice: ma quando mai l'AIPAC è stata impegnata per l'uguaglianza, la libertà o la giustizia? Questo, date le posizioni di AIPAC, sempre e comunque pro-Israele, in ogni forma di violenza e oppressione dei palestinesi. Conviene però notare che il sito web dell'AIPAC vanta, tra l'altro, il suo supporto per la comunità nera. AIPAC sponsorizza anche eventi e viaggi in Israele per i leader dei neri americani e batte sull'importanza dell'attivismo dei neri per la causa israeliana. Furbi, gli amici, eh? Ultimo, sulla guerra dei 6 giorni, ancora. Il mito di un Davide israeliano contro un Golia arabo durante la guerra dei 6 giorni. Articolo di Mikko Peled sul sito di Invicta Palestina, ripreso da Amicizia Italo-Palestinese. L'articolo di Peled è assai utile in quanto ricorda in modo chiaro come avvenne la guerra dei 6 giorni, compresa la vicenda della nave spia USA Liberty, attaccata, una nave americana, attaccata dagli israeliani di proposito e non per sbaglio. Quello che manca ancora nell'articolo di Peled è la questione del casus belli della guerra del 67, perché questo è un cavallo di battaglia dei sionisti e degli amici di Israele. Si tratta della questione della chiusura degli stretti di Tiran, nel sud di Israele. Su come siano andate effettivamente le cose, attendiamo la pubblicazione del terzo libro di Hart, Il sionismo, vero nemico degli ebrei, libro che è stato già tradotto da Diego Siragusa ed è in via di pubblicazione. Con questo si conclude la rassegna stampa e si augura buon ascolto per il resto della trasmissione. Ascoltiamo ora musica e parole del poeta Tawfiq Ziad dal film Continuano la Nakba. loro politica di apartheid. Lo sradicamento forzato e il conseguente furto delle loro proprietà hanno trasformato i palestinesi in una nazione di rifugiati ed esiliati che continuano a rivendicare il rispetto del loro diritto al ritorno. Ascoltate, fatelo sentire al mondo intero, malgrado la fame, la sofferenza, la macelleria quotidiana. Noi resistiamo, noi vivremo sulla nostra terra. Lo sentite? أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أناديكم أناديكم أناديكم Oggi abbiamo in collegamento, come già è stato detto in apertura della trasmissione, Monica Maurer, che da 10 anni è nel consiglio d'amministrazione dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, con sede a Roma, alla quale vorrei domandare, perché so che presso l'archivio audiovisivo è custodito il fondo che porta il suo nome. Ecco, vorrei sapere, questo fondo da che esigenza è nata, che bisogni soddisfa e che cosa contiene al suo interno? Ok, allora devo andare un momento a monte per capire in che cosa consiste. E che io dal 77, cioè la fine degli anni 70, ho girato in Palestina, ma soprattutto nella diaspora palestinese in Libano, cioè nei campi profughi dal nord fino al sud del Libano. E concentrandomi su quello che l'OLP, questo chiaramente molto prima del periodo dell'AMP, e quello che allora si chiamava Rivoluzione Palestinese, aveva messo sul campo come infrastruttura sociale, culturale, di educazione e soprattutto anche medica, cioè di salute pubblica, per migliorare la vita della popolazione palestinese nei campi. E questo era un aspetto, diciamo, della rivoluzione palestinese, che allora si chiamava rivoluzione perché era basato su un progetto collettivo per un futuro e a costruire un embrio di un futuro Stato laico e democratico. E allora per tantissimi anni, anzi quasi 40, custodito tutto questo materiale, di cui ho fatto nel giro dei decenni 10 film sulla questione palestinese, vari aspetti, e questo materiale chiaramente io l'ho tenuto con me, cioè l'ho portato da cambio casa a cambio casa, dal paese in paese, come una tartaruga con me, perché ero convinta che un giorno ci sarà un archivio nazionale di cinema palestinese, e io tutto questo materiale lo depositerò lì. Allora, come questo finora non esiste, cioè c'era un archivio cinematografico palestinese legato all'Istituto di Cinema Palestinese, con il quale io ho collaborato, ho fatto tutti questi film, è stato distrutto e saccheggiato dall'esercito israeliano, che contro l'accordo allora è entrato a Beirut e ha saccheggiato non solo l'archivio di cinema, ma anche quello dell'Istituto del Research Center, da lì, dall'82, che era in un certo senso la fine di questo processo di utopia, se vuoi, o di un futuro basato su un progetto non solo basato sulla liberazione della terra di Palestina, ma anche una società basata sulla giustizia sociale. E era questo il punto che a me mi ha interessato moltissimo e che mi pareva importante a documentare. Allora, come finora questo Archivio Nazionale Palestinese non esiste, e dato che ho una certa età, non voglio rischiare che queste cose andranno disperse. Io anni, ma sono più di 10 anni fa, ho cominciato a digitalizzare tutto questo materiale e anche con l'impegno continuo dell'archivio, all'interno dell'archivio, e per salvaguardare questo patrimonio audiovisivo di una pagina della storia palestinese, almeno quello della diaspora, che io ritengo molto importante, forse una pagina d'oro, che però è stato completamente cancellato dalla memoria e i giovani non ne hanno la minima idea di quello che allora sia costruito sul Gaza. Dimmi. Sì, su quello che dicevi, so che ti sei impegnata appunto su questa digitalizzazione con il contributo anche di Emily Jassir, di ben 33 bobine. No, Al Jazeera no. Al Jazeera ora sto lavorando su un progetto che si chiama Shooting Revolution, che sarebbe un film fatto in parte di questi materiali, a rivisitare questi materiali con protagonisti della lotta allora, che tuttora sono attivi, che è Jihan Helu, che era la responsabile di relazioni esteri dell'Unione delle Donne, con Bayan El Hood, che è una professoressa di storia specializzata nel oral history, che ha fatto il libro su Sabra Shatila, oltre a essere la vedova di Shafiq El Hood, uno dei fondatori dell'OLP, e quindi una testimone privilegiata, diciamo, della storia della rivoluzione palestinese e anche quello che è seguito. E non Al Jazeera forse entra in questa cosa, ma era una fondazione Shoman che mi ha aiutato in questo. Monica, non avevo detto Al Jazeera, forse l'ho pronunciato male, avevo detto Emily Jassir, che è una regista. Ah, Emily Jassir, sì, ecco. Emily Jassir. Non so, sì, se è la sorella, okay, di Al-Marie Jassir, era lei. Emily Jassir è tutt'altra cosa che Al Jazeera, sì. Ecco, e so che avete lavorato su questa digitalizzazione di ben 33 bobine del documentario degli anni 70, Tal al-Zatar, la collina del Timo. Sì, ecco, sì, mi puoi raccontare, sì, un po' com'è stato questo progetto di recupero? Perché so che è, certo, stato complicato. Certo. Allora, noi era inizio anni 90, abbiamo cambiato il nostro deposito cinematografico, che è fuori Roma, a Pomezia, e abbiamo avuto la possibilità di insomma, siamo stati di avere un nostro settore dell'archivio all'interno del nuovo edificio con le condizioni migliori immaginabili di conservazione di cinema dell'ACS, dell'Archivio di Stato. E io insieme a Ugo Adilardi, il nostro presidente in questi anni, abbiamo organizzato il trasferimento dei e altri compagni dell'archivio, come Claudio Olivieri, il nostro archivista, di portare questi materiali da un deposito all'altro. Allora, uno delle delle, dei, dei, dei materiali erano 32 rulli di rushes, cioè di girato del film Telazzata, che era l'unica, al mio sapere, coproduzione italo-palestinese. Perché? Perché il film che è stato girato da Mustafa Abu Ali, allora direttore dell'Istituto di Cinema Palestinese, che faceva con il quale appunto io avevo collaborato, e Jean Chamoun, loro hanno fatto questo film nel 76, insomma dopo la durante e dopo l'assedio del campo più grande campo profugo in Libano, Tel Azatar, che è stato assediato e poi distrutto, fatto insomma distrutto a terra dai falangisti. Quando avevano finito a girare non c'era più, non c'era possibilità di post-produzione, cioè nel senso che l'unico laboratorio in Libano che era a Baalbek, il studio Baalbek, era stato bombardato e non potevano fare la post-produzione né il laboratorio, cioè sviluppare né montare né fare la sonorizzazione. E allora attraverso un contatto del Partito Comunista Libanese col Partito Comunista Italiano che è avvenuta questa coproduzione, perché il PC allora aveva la Unitelefilm, che era sia archivio cinematografico che anche produzione cinematografica. E quindi li hanno invitato di portare il materiale a Roma e lì sono stati permessi per fare il montaggio del film, che poi ha aggiunto anche Pino Adriano del collettivo militante di cinema che ha curato la versione italiana. E poi per tanti anni il film, la versione italiana di Telazzata, ha girato i festival dell'Unità, le scuole, eccetera, eccetera. Però e tutte le copie arabe sono state mandate a Beirut per poi da lì essere distribuiti nel mondo arabo. Io vedendo tutto questo materiale sapevo che se ora si trasferisce alla nuova sede, quando io me ne vado, nessuno sa che cosa è, che significato ha, che importanza ha, soprattutto perché, come ho già detto, nell'82 l'archivio di cinema dell'Istituto di Cinema, che faceva parte della cosiddetta informazione unificata, Palestinian Cinema Institute, PLO, Unified Information, era la dicitura, e quindi con l'accordo dei altri compagni del CDA abbiamo deciso di portare tutto il materiale nella nostra sede a Roma, all'AMOT, cioè Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, e lì ho cominciato aprire le scatole, vedere il stato delle cose. E per salvare questo materiale, che per fortuna non tutto, ma diciamo il 90% era in un stato relativamente buono, allora per salvare questo materiale abbiamo deciso di digitalizzarlo. Per questo ci volevano dei fondi, e quindi lì è intervenuto Emily Jasser, un'amica, una famosa artista palestinese, che avevo conosciuto qualche anno prima, perché lei, uno dei miei film che si chiama Nato della morte, Born Out of Death, lei l'ha portato in giro per una rassegna, e lei è molto interessato non solo nell'Italia, tant'è vero che c'è un bellissimo cosa che lei ha scritto che si chiama What is left of the left in Italy, cioè che cosa è rimasto della sinistra in Italia. Questo c'ha, non so, 8-9 anni, ma lì lei descrive anche tutta questa storia. Allora, ho chiamato Emily, che è un dinamo incredibile, e sapevo che lei, essendo molto interessato dal salvataggio del patrimonio audiovisivo dei palestinesi, come lei, anche la sua sorella Anne-Marie Jasser, che è una delle più importanti registe palestinese. E quindi Emily ha detto generosamente: sì, vengo, e poi abbiamo cominciato a fare tagli cuci, lei per un periodo più breve, ma io per 2 anni, e così abbiamo, durante questo lavoro, in parte anche documentato, abbiamo deciso che quando è terminato, cioè tutto è digitalizzato, il girato, no? Che normalmente si butta pure, molte produzioni dopo qualche anno lo dismettano, però visto uno il fatto che l'archivio palestinese è andato, è sparito, è saccheggiato e distrutto, e visto anche la enorme importanza di recuperare memoria audiovisiva persa e dimenticata, tutto questo materiale è stato appunto salvaguardato e digitalizzato con il grande aiuto di Emily Jasser. Bene Monica, facciamo una piccola interruzione musicale e poi riprendiamo. Ascoltiamo ora Feroz, uno dei nomi di maggior rilievo della musica araba del XX secolo, in Liberu. من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم Thank you. Ritorniamo a parlare con Monica Mauer. Per chi si è messo in collegamento in questo momento, siamo nella trasmissione di Buongiorno Palestina. Volevo chiedere a Monica, visto che so che hai studiato sociologia, scienze della comunicazione, come sei arrivata al cinema e in particolare com'è che ti sei interessata al mondo arabo e quindi hai documentato la realtà dei territori palestinesi? L'inizio era proprio quando il mondo palestinese, cioè diciamo la questione palestinese aveva una importanza nella mia vita politicamente molto prima di fare cinema lì, cioè ho fatto un sacco di altre cose prima di andare appunto in Libano e cominciare con un film sulla mezzaluna rossa palestinese. Questo, cioè l'inizio è una esperienza che ho avuto da giovanissima, cioè a 15 anni e mezzo, nel contesto della guerra di liberazione nazionale algerina, perché io andavo a fare dei corsi all'Accademia dell'Arte accanto alla scuola, no? In parte nascosto dai miei, e lì ho conosciuto molti algerini che sono stato in esilio e che mi hanno parlato del processo di liberazione nazionale dal colonialismo francese e della tortura. E c'era ma questo magari ora è un po' troppo lungo, comunque un libro scritto da un compagno francese che è stato però che è stato preso e quindi è venuto in Algeria, è venuto testimone della tortura nelle prigioni francesi in Algeria. E questo libro in una manifestazione l'abbiamo distribuito, io volevo partecipare a quello e ci hanno menato di brutto e lì ho capito che uno non può stare in mezzo, che uno deve scegliere il campo. E quindi il mio interesse o compassione col mondo arabo, in questo caso non ancora la Palestina, ma insomma l'Algeria, che era la lotta di liberazione algerina era un fanale in questo periodo, cioè metà anni 50, per fine anni 50. E quindi da lì ho cominciato a fare dei filmetti che, Super 8 su gli immigrati, cioè quelli che in Germania si chiamavano Gastarbeiter, cioè gli operai ospiti, che chiaramente è quasi cinico a dire così, che erano come oggi immigrati, i più sfruttati, quelli senza diritti, cioè il terzo mondo nel mondo ricco, no? E questo già prima di finire la scuola, e poi appena finito la scuola, cioè il liceo, ho studiato appunto, come tu hai detto, scienze di comunicazione e sociologia, ma allo stesso tempo ho anche lavorato come si dice, cioè non pagato all'inizio, un stage, diciamo, alla televisione, al terzo canale, che è quello educativo, e ho fatto di vecchi film, cioè dei fillers, no? Dove, per non produrre nuove cose, riciclare vecchie cose e fare dei piccoli filmati di questo. E questo è il mio primo contatto con l'importanza di archivio. E quindi alcuni elementi si sono congiunti, e poi man mano, insomma, ho fatto dei film su fabbriche occupate, ho fatto un film sulla LIP, questa fabbrica francese di orologi, inizio anni 70, che era la prima fabbrica autogestita per un anno e mezzo, immagina. Hanno continuato a produrre e vendere i loro prodotti. Poi ho fatto un film in Cile nel 72 durante il periodo di Allende, e poi ho fatto una serie di film in Italia, sempre per la televisione, su dei ritratti, Bertolucci, Taviani, Zavattini, e poi ho lavorato con Carmelo Bene come aiuto regista, ho fatto un film su di lui e poi ho lavorato come aiuto regista, quindi c'è tutta una tappa, un percorso di lento avvicinamento, diciamo. Senti, il tuo primo film sulla Palestina a che anni risale? Il primo film sulla Palestina è Palestine Red Crescent, cioè la mezzaluna rossa palestinese, sull'infrastruttura di salute pubblica e sociale dell'OLP. E nel 70, fine del 70, fine del 77 sono andato in Libano nel contesto della solidarietà medica, sai che c'era la guerra civile, i campi, fabbriche distrutte, ospedali, la necessità di portare una solidarietà che non è quella verbale, ma quella concreta, con medicine, medici, infermiere, eccetera. E lì ho visto che c'è questa enorme infrastruttura fantastica, molto sviluppata, di salute pubblica, che in Libano non c'è, perché la salute in Libano, cioè la medicina, è privata. Non c'è salute pubblica, quindi l'unico accesso che i poveri libanesi, oltre alla popolazione dei campi, aveva di essere curato era la Mezzaluna Rossa palestinese, e cosa che oggi si è completamente dimenticato. Sembrava oggi in Libano, sembra che i palestinesi erano la crux dei libanesi, invece non era per niente così nella realtà, o comunque non solo. E quindi questo film poi ha girato moltissimo attraverso la Mezzaluna, che l'ha mandato in tutte le loro rappresentanze, e anche le varie, allora non erano ancora ambasciate, insomma, rappresentanze dell'OLP, per fare vedere la faccia di costruzione sociale dell'OLP, che a me mi pareva importantissimo di sapere che non era tutto solo la lotta armata, ma anche una lotta per un'altra società basata sulla partecipazione e la giustizia sociale. Com'è il titolo di questo film? Palestine Red Crescent, Ok. cioè la Mezzaluna Rossa palestinese. Se non sbaglio c'è anche in italiano, perché è tutto fatto in varie lingue. Originali sono in vabbè, arabo, chiaro, ma le prime versioni erano tutte in inglese, Sì. e poi ho fatto alcuni film in francese, spagnolo, tedesco, sì, tedesco anche perché avevo cioè la più parte dei film sono anche stati distribuiti, cioè con distribuzioni professionali, quindi hanno fatto delle versioni in altre lingue, sì. Hai fatto anche un documentario con lo sfondo storico-politico della prima intifada, se mi ricordo, Sì, vero? questo molto più Alexandra. tardi, questo è, sì, no, allora in Libano ho fatto prima la Mezzaluna Rossa palestinese, infrastruttura sociale, medica e il lavoro sociale nei campi. Poi è uscito il 78. O inizio 79, poi nel 79 era l'anno internazionale dei bambini, cioè del fanciullo, come si dice. Ho fatto un film mi hanno chiesto appunto di fare un film sui bambini, e si chiama Children of Palestine, cioè Bambini della Palestina. Anche questo c'è in italiano. Seguendo la dichiarazione internazionale, la dichiarazione dell'ONU sul diritto dei bambini, cioè 10, un decalogo, diciamo, a mostrare come questi diritti sono negati attraverso l'occupazione, la guerra, appunto la situazione di statelessness, no? Di essere senza stato dei palestinesi. E quello per anni ha girato insieme col film dell'ONU, che l'ONU aveva fatto, e ha girato in molti paesi anche. Poi c'era il film che è uscito nell'80 ma girato nel 78, che si chiama La Quinta Guerra, The Fifth War, fatto insieme con Samir Nimer, che era uno dei registi e direttori di fotografia, cioè cameraman dell'Istituto di Cinema Palestinese. C'era Vanessa Redgrave? C'era come attrice Vanessa Redgrave? Sì, ma non è attrice, sì, lei è attrice, ma nel film è come una cronista. Cioè lei quando ha cominciato la guerra nel marzo del 78, che era già una specie di prova generale degli israeliani di occupare, cioè di invadere il Libano, ma per fortuna nel 78 non ce l'hanno fatto di andare oltre il fiume Litani, più o meno a metà, a Saida più o meno, e perché la resistenza era molto forte. E allora Vanessa era disposta di fare come una cronista, no? Cioè il leading thread, yani, era un filo conduttore nel film, che ci si muoveva con, era, sì, filo conduttore quello, sì, cronista era nel film. E quindi questo è il numero tre. Poi ho fatto un film che poi è finito al fine maggio dell'82 e a inizio giugno ha cominciato la guerra. Non era finito, appunto, era finito il montaggio, ma non il sonoro, eccetera. Un film su che si chiama Ashpal, Polso della Vita, Ashpal, Pulse of Life, che era sull'organizzazione di Ashpal, vuol dire giovani leoni, perché chiamavano i ragazzi giovani leoni e le ragazze Zahrat, cioè i fiori, no? Le rose. E era un film sul, diciamo, i pionieri, quello che sarebbero i pionieri, no? L'organizzazione dei giovani, dei adolescenti dell'OLP, e Salah al-Tamari, che era non solo un eroe della battaglia di Karame in Giordania, ma anche un membro del Consiglio rivoluzionario e poi appunto il responsabile di questa organizzazione di gioventù, mi ha chiesto di fare un film per loro, perché in estate, quando erano invitati, no, dei gruppi di giovani nei vari paesi, dal Canada, Scandinavia, paesi socialisti, li hanno, che allora ancora esisteva il blocco socialista, li hanno sempre chiesto perché voi fate anche entrenamento militare. E ho detto, spiega perché. Perché quando una madre vive al lago o al fiume, deve insegnare ai suoi figli di nuotare. E quando una madre vive nella guerra, deve insegnare ai suoi figli di difendersi. E fammi un film a spiegare questo. E questo l'ho fatto, e questo film poi non l'ho mai fatto uscire, perché non è mai stato pubblicamente reso pubblico, perché dopo la guerra dell'82 e la distruzione di tutta questa infrastruttura non mi pareva il caso. E quello che, di cui ti accennavo prima, sulla prima intifada dell'88, sì, no, c'è molto in mezzo, non so se vuoi sentire tutti o vuoi fare un salto. No, ti volevo chiedere, no, dimmi di tutti, sì, dilli. Vabbè, c'è questo, poi c'è nel luglio 81 c'era il bombardamento degli israeliani di un venerdì mattina, dove la gente sta a casa, no? Bombardamento del quartiere più sovrappopolato di Beirut, a Fakkani, e nel giro di un mezz'ora sono morti 300 persone e più di 1000 erano feriti. E volevo fare, questo era mentre facevo quel film su Ashpal, no? Sui giovani. Allora con Samir Nimer e Abu Zarif, che erano i due cameraman con cui ho fatto otto film insieme, abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare un telex al mondo, un strillo, no? Perché nei giornali per 2 o 3 giorni scrivevano massacro, e poi, come succede, è sparito dalle notizie, e lì era chiaramente un crimine contro l'umanità. Bisognava reagire, no? E allora ho fatto questo piccolo, diciamo, poema politico attraverso il cinema, descrivendo la storia di una coppia che io avevo conosciuto, perché lui lavorava con i Ashpal, lui palestinese, lei libanese, e lei era incinta nel nono mese. E quando hanno cominciato a bombardare, lei ha cercato di scappare per andare al rifugio. Uscendo di casa è stata colpita da un frammento di una bomba che gli ha aperto il ventre. Il bambino è uscito, lei è morta. Infermieri, cioè quelli che aiutavano il soccorso, hanno preso la bambina, l'hanno portata all'ospedale nell'incubatrice, e poi lui va impazzito, no? Va a casa, trova la moglie senza bambino, morto, e la ritrova allora all'ospedale, e racconto questa storia attraverso la sua, insomma, come se lei fosse a raccontarlo, no? Dall'aldilà. E è un film molto, c'ha 9 minuti, è concentratissimo, ma è diventato quasi un classico. Tant'è vero, sono molto orgogliosa che nel più importante libro sulla cinematografia palestinese, che ha un migliaia di titoli di film palestinesi e sulla Palestina, dietro c'è un DVD con 5 film, e uno di questo è questo Malude Milen Mautian, nata dalla morte. Ok, 81, poi 82, L'assedio di Beirut, e lì un altro film che si chiama Why. Ascoltiamo ora un brano del film Tell al-Zaatar, La collina del Tibo. Il film ricostruisce la storia del campo quartiere di Tell al-Zaatar e della sua resistenza nel contesto della guerra libanese, così come l'hanno raccontata i protagonisti, gli uomini, le donne e i bambini palestinesi e libanesi abitanti nel campo e sopravvissuti alla tragedia. من أحد سكان تل الزعتر وابتدأت المعركة كان Sono un abitante di Tal el-Zaatar. La battaglia è cominciata esattamente alle 7:10 del mattino. Sono cadute tante bombe che nessuno ha potuto contarle. واسأل عنه الريح تندل إن الزعتر يختصر الزمن فينبت في الماضي والحاضر والمستقبل إن الزعتر يمحي كل حدود الأرض فينبت في الماء وفي الصحراء في الماء وفي الصحراء وعرفت لماذا لماذا لماذا عرفت لماذا وعرفت لماذا. Il timo cresce sul colle e ai piedi del colle. Chiedilo al vento e saprai. Il timo unifica il tempo, cancella i confini, cresce nell'acqua e nel deserto. Ora so perché un giorno a Beirut bande di fascisti, rinnegati e separatisti assediarono il timo. Ora so perché l'odore del timo è più forte di tutti gli odori di questo secolo ebro di notte. Ora so perché la terra è assediata dal timo, perché la terra è assediata dai poveri, perché la terra è assediata dal futuro. أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل أصبحت الأرض محاصرة بالمستقبل. Riprendiamo la trasmissione con Monica Mauer. Ci dicevi appunto, Monica, dei tuoi film. Eravamo rimasti a Hawaii, sull'assedio di Beirut. Sì. Allora, Hawaii perché? E sulla guerra dell'82, cioè l'assedio di Beirut, e soprattutto concentrandosi su tre aspetti che nella stampa, nella stampa media internazionali era trattato relativamente poco, che questo era una guerra molto televised, insomma molto seguito, no? Questo assedio di tre mesi. E i tre aspetti sono: uno, il fatto che più di 75% dei morti e feriti in questa guerra erano civili, tra cui la stragrande maggioranza donne e bambini e vecchi. E era dopo il Vietnam, la guerra dove l'eliminazione di una parte della popolazione o di esseri umani faceva parte di una strategia militare, cioè quindi l'uso di quello che si chiama anti-personal weapons, cioè armi antipersona, e questo è il secondo aspetto che era veramente allucinante in questa guerra, perché è venuto fuori dopo, nell'ottobre 82, Rogers, che allora era il comandante della NATO, nella NATO Annual Conference ha detto che il Libano era un test per alcuni nuovi armi, come la cosiddetta implosion bomb, la vacuum bomb, quello che hanno anche utilizzato in Amerie, no? Vi ricordate in Iraq? Sì. Cioè una bomba non di esplosione ma di implosione, che succhia interi edifici, spesso con contenuto di fosforo, che quindi le persone che sono nei rifugi, sotto, no, gli edifici, si bruciano. E lì in Libano l'hanno testato la prima volta, quella implosion bomb. Io ho filmato un rifugio dove 360 donne, bambini, vecchi soprattutto, sono carbonizzati, no? Cioè chiaramente crimini contro l'umanità. E per questo, questa bomba, ma poi anche l'uso di fosforo, l'uso di bombe di frammentazione, l'uso di time shells, cioè che sono bombe che quando arrivano i soccorritori esplodono a remote control, no? Che quindi chi aiuta quelli che sono feriti viene ammazzato. E molte di queste armi che sono sostanzialmente di produzione bellica americana, a volte perfezionati dall'industria bellica israeliana. Cioè era una denuncia di che la strategia di questa guerra era assolutamente al di fuori della legge internazionale. E in questo contesto il film è stato anche utilizzato in una commissione di interrogazione al Senato americano, perché mostrava, era Ramsey Clark e un senatore di origine libanese, Aburzek, che hanno utilizzato questo perché dimostrava la flagrante violazione delle leggi internazionali. E il terzo aspetto era l'organizzazione della sopravvivenza, cioè quello che allora chiamavamo la resistenza civile. Cioè, in tutto il film, che poi è breve, con tutti i miei film sono sempre brevi perché cerco di mi sono inserito moltissime volte, no, nelle orari delle università, delle scuole, dell'ora sindacale, eccetera. Quando hai un'ora e fai un film di un'ora e mezza, non te la fanno mai. Se lo fai di un mezz'ora, hai un mezz'ora per discutere. Cioè, quindi è questo il background, no? Cioè di fare una diffusione militante con reazione politica, cioè una riflessione, no? Di essere un push per una riflessione. E i comitati libano-palestinese, perché in questa guerra nell'82 c'era molto unità di una parte della popolazione libanese, soprattutto quelli che sono fuggiti dal sud dai bombardamenti e della invasione, e c'erano 800.000 persone senza casa, no, che campavano nelle strade, quindi senza, come hanno bombardato prima la centrale elettrica, poi dove si custodivano gli alimenti, l'energia, gli ospedali, i ponti, cioè tutto quello che è stato costruito per migliorare la vita, tutto questo è stato distrutto, e hanno fatto quello che si chiama scorched earth, cioè la terra bruciata, e era l'obiettivo era di eliminare vite e eliminare l'OLP del Libano, cioè che cancellare una presenza organizzata dei palestinesi in Libano, e hanno addirittura bombardato i cimiteri, cioè il cimitero dei martiri hanno bombardato. E questa documentazione, che è molto forte, è molto difficile a sopportare anche, però ho utilizzato solo il 10% del materiale che avevo, ma con questo film sono riuscita a fare un nesso della lotta e della tragedia dei palestinesi con il allora fortissimo movimento della pace, perché era importante che non si vedeva questo solo come un fatto, una guerra regionale, locale, ma che era chiaro che questo è che oggi è la guerra, oggi, allora, sono 40 anni fa quasi, no? Non direi 38, che cosa è la guerra in questo? E tant'è vero che il film ha girato moltissimo, l'hanno visto, non so, a Hiroshima, 10.000 madri contro la guerra di Hiroshima, a Praga in un convegno con 50.000 persone, l'hanno visto nella mina Potosí occupata in Bolivia, l'hanno visto in Angola e poi chiaramente in Europa, eccetera, però era un punto di identificazione, no? Del civile contro una macchina di distruzione, che anche a Comiso ho fatto tantissime cose, ho Le Madonie per la pace, insomma è un film che è riuscito a fare un ponte tra situazioni che non c'entrano immediatamente con Libano, ma c'entrano sì, perché il destino della popolazione civile era lo stesso ovunque. E poi, poi questo 82, poi 84 ho fatto un film che è una conseguenza logica, o se vuoi ideologica, di Y, che si chiama War Lab, laboratorio di guerra, che è su questo che ho detto prima, che non solo sul Libano, ma è l'aumento prendere la popolazione civile come obiettivo strategico, cioè come obiettivo di guerra, dal Vietnam, dove ha cominciato questa cosa, no? Cioè non più esercito contro esercito, ma tecnologia contro popolazione, no? E il Libano è il centro del film, è quello che ho spiegato prima, no? Che era un campo di sperimentazione per l'industria bellica anche. E questo era anche coprodotto e distribuito, largamente distribuito del International Council of Peace, cioè del Consiglio della Pace Internazionale. E poi nell'85, essendo 40 anni dalla fine della guerra e l'occupazione nazista dell'est, no? Cioè dalla Polonia all'Unione Sovietica, ho letto o delle mie ricerche, cioè io prima di tutti i film faccio mesi se non anni di ricerche, no? E nelle mie ricerche ho scoperto che i regolamenti militari dei occupanti nazisti sono molti, tutto quello che riguarda collective punishment, cioè la punizione collettiva, la deportazione, la distruzione, la limitazione del movimento, cioè in molti contesti sono similissimo, se non quasi uguali, di quelli dei più di 1.000 erano allora, intanto sono molti di più, dei regolamenti militari dei occupanti israeliani delle terre occupate nel 67, no? Cioè cosa che è importantissimo a rendersi conto che la popolazione palestinese vive sotto occupazione militare, regolamento di militare. E quindi... Su questo, Monica, scusa, ma su questo, su questi regolamenti della Wehrmacht o delle SS di punizioni collettive, c'è una documentazione che è disponibile, che tu sappia? Ci sono migliaia di libri e tantissimo documentazione. Io ho fatto la mia tesi su chi ha finanziato la stampa nazionalsocialista, cioè il capitale dietro. Questo tanti anni prima, chiaramente, e quindi ho lavorato per mesi e mesi in istituto di storici, dove hai armadi pieno di documentazioni. Ecco, ma c'è anche qualche articolo che metta in relazione o che faccia capire la somiglianza tra questi provvedimenti dell'esercito nazista e quelli dell'esercito israeliano? Non si può puntualizzare su un... sarebbe... A parte del fatto che chiaramente la situazione storica, politica è completa, non si può paragonare. Cioè, questo sarebbe veramente una semplificazione che non condivido. Ma questo, cioè, ci sono dei concetti, come ho detto, per esempio la punizione collettiva, no? Che sono che hai gli stessi concetti, lo stesso iter. Ma il discorso politico storico è troppo complesso per pinpoint, cioè per metterlo su una frase. Non mi pare corretto questo. Certo, sono d'accordo. Continuiamo quindi con i film che hai fatto. Ah, già. Allora, questo film 85 si chiama Listen, ascolta, e viene da una poesia di Tawfiq Ziyad, grande poeta palestinese, nonché membro del Rakah, cioè il Partito Comunista israeliano, come deputato palestinese, nonché 5 volte sindaco di Nazareth. Lui ha scritto questa poesia, questa, sentite, io, voi mi fate male, mi torturate, ma io non mi inginocchio, io resterò in questo paese. E questo, questa poesia è il tema, diciamo, del film, che è sulla la vita quotidiana sotto occupazione. Sotto occupazione militare nei territori occupati del 67. E poi ho smesso di fare film sulla Palestina, per un periodo almeno, perché mi pareva, cominciavano alla metà degli anni 80 a venire fuori dei film palestinesi fatti da registi palestinesi, in un primo momento tutti coprodotti o coprodotti con con produzioni estere, ma per esempio Rashid Mashrawi, che era uno di questa generazione dall'Olanda, Hani Abu Assad con chi col Canada, chi con, ma il primo film palestinese del luogo stesso era La memoria fertile di Michel Chleifi, che viveva, che aveva studiato, che è sempre di Nazareth, che aveva vissuto, no, tuttora vive in Belgio, aveva studiato lì e poi è rimasto e ora insegna cinema in Belgio, ma è un film fatto in Palestina, a Nazareth, le due ritratti di che si intrecciano di una donna e due donne, ora senza raccontare tutto il film, ma un film straordinario, di una bellezza incredibile. E poi appunto cominciava la cinematografia palestinese in Palestina, e allora mi pareva più importante di cercare appoggiare che questi film siano visti e avessero un forum, una possibilità di cercare a inserirmi ovunque dove si poteva aiutare al crescere di questa cinematografia nazionale, no? Nazionale chiaramente nel senso locale, non come contenuto, no? E non ho fatto un altro film, poi questo che tu dicevi, Palestina in fiamme, che era sulla prima, cioè era sul sul retroscena politico storico della prima intifada. Allora, che ha cominciato, come sapete, alla fine dell'87, no? E ovunque si diceva spontaneous uprising, no? Cioè una insurrezione spontanea, no? Che visto superficialmente può sembrare questo, però il punto che mi pareva importantissimo a marcare è che la lotta, che la prima intifada è la difesa della propria terra, no? Il outcry di dire noi qui non ci muoviamo, noi qui ci rimaniamo, questo è terra nostra. Allora era importante di vedere questo non come una un focolare immediato così, ma di vederlo all'interno del suo contesto storico. E il contesto storico è che la lotta per la terra di Palestina ha cominciato molto molto prima, ha cominciato con la difesa delle terre molto prima del 48, cioè della creazione di Israele, perché da il progetto zionista di creare un Stato ebraico in Palestina, allora come sappiamo mandato britannico, era cominciato già negli anni 20 con la crescente emigrazione di coloni ebraici da tutto il mondo. E quando e poi c'erano le insurrezioni contro non solo il progetto zionista di creare un Stato in Palestina, sempre pretendendo che la Palestina, no? C'è la famosa frase a land without people for a people without land, cioè una terra senza popolo per un popolo senza terra, che chiaramente è assolutamente falsificando la realtà, no? Che i palestinesi stavano da tantissime generazioni. Allora era il tentativo di fare questo soprattutto per un pubblico, diciamo, occidentale, di mettere in un contesto storico politico che cosa era la prima intifada, e fare una carrellata sulla storia degli anni 20 al 48, al 67, ecco appunto. Bene, sì. Facciamo un altro stacco musicale e poi riprendiamo, ok? Ascolteremo ora Dalida nella canzone Libnan. Dalida, che prima dello scoppio della guerra civile era stata una delle protagoniste della vita notturna di Beirut, registrò questa canzone nel 1986, in un momento di relativa calma della lunga e sanguinosa guerra civile libanese. I combattimenti ripresero però poco dopo e Dalida decise di non far uscire la canzone, che fu pubblicata postuma solo nel 1988. الحرب والنار من بعد هاللي صار بعد الحرب والنار من بعد هاللي صار عاد الصفا لبنان عاد الوفا لبنان شمس وقمر لبنان لبنان لبنان السهر واللون والحب والمكان منو مثل لبنان شو صار مهما يصير قلبه كبير كبير بس متحرق لبنان لبنان بيروت يا بيروت يا قدس بعد هاللي صار عاد صفى لبنان عادل وفى لبنان شمس وقمر لبنان لبنان عادل صفى لبنان عادل وفى لبنان شمس وقمر لبنان لبنان Riprendiamo la conversazione con Monica Maurer affrontando il problema della fruizione e della promozione dei film che sono conservati appunto nell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico di Roma. Ok. Dopo Palestina in fiamme nell'88 ho continuato in questo che voi penso che ora mi volete chiedere la promozione della cinematografia palestinese, mi sono concentrato su quello e lì ci sono delle altre cose, ma poi ho fatto ultimamente, cioè l'altro estate, ottobre è uscito un corto che si chiama Giornata della Terra, che è di materiale girato nell'81 sulla quinta Giornata della Terra, che è quella giornata il 30 marzo, no? Per ricordare, va bene. Un materiale che volevo sempre lanciare, che si usava soprattutto per i giovani, perché è filmato in Galilea, cioè Nazareth, Hanna e Sakhnin, dove è il monumento per la giornata della terra, che è importantissimo che i giovani sappiano che c'era una coscienza collettiva molto alta in questi anni 80, guidato da Taufik Ziad, di cui ho già parlato prima, che è protagonista in questo filmato anche, e che c'è una unità del popolo attraverso tutte le età, i cristiani e i musulmani, perché sapete che in Galilea ancora più del 30% dei palestinesi sono o erano almeno cristiani, e attraverso tutte le classi sociali una compattezza incredibile intorno alla questione della difesa della propria terra, della propria storia, della propria identità. Ascolta Monica, l'ultima domanda ti volevo fare. Che tu sappia, ci sono iniziative, attività di promozione del cinema palestinese in Italia? Beh, ci sono parecchi, crescendo, penso. Spero, iniziative in varie città, c'è anche cioè che fanno delle rassegne, che fanno anche dei iniziative un po' più compatte, come forse sono 3 o 4 anni fa a Milano hanno fatto un festival teatro, cinema, poesia, Filistiniat si chiamava, e poi c'è chiaramente il festival di cinema palestinese, arabo e palestinese a Cagliari, l'Art, che è ormai, di cui sono la madrina, posso dire, e che è ormai alla 17ª edizione, anzi 18ª edizione, e per quello che riguarda me, ho fatto da ormai 7 anni il Cineforum Palestina presso l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio, il che vuol dire che ogni primo giovedì del mese si mostrava un film palestinese con un intervento o di un storico o di un protagonista oppure di collegamento Skype con il regista. Ecco. E poi c'è un sacco di iniziative anche a Sopace Palestina, Luisa Morgantini, cioè, sono stati fatti delle iniziative, poi il Med Film Festival, insomma le iniziative ci sono. Quelli diciamo con la più lunga continuità annuale e mensile direi sono appunto l'Art Film Festival a Cagliari e il Cineforum Palestina. Poi c'è a Venezia Cinema Senza Diritti, però sono alla 4ª edizione. Ci sono varie iniziative. Bene, confortanti. Sì. Allora, Claudio, se vuoi intervenire prima te. No, quello che volevo chiedere era... Le domande finali le faccio io, tanto sono brevi e sono, diciamo così, più... Insomma, le mettiamo in fine della trasmissione, dell'intervista. Anche le mie domande sono brevi e riguardano essenzialmente l'uso dell'archivio, perché tu Monica ci hai parlato dell'archivio come memoria documentale della Palestina e del cinema palestinese. Oltre che come memoria, cioè la domanda è: questa memoria poi come viene utilizzata? Cioè come si fa, come si accede a questa memoria? E come viene utilizzata e da chi viene utilizzata? Sì. Già prima ho detto che un archivio solo nel senso della conservazione per me non interessa molto. Per me un archivio deve essere vivo, cioè deve avere un dialogo col presente. Il che vuol dire soprattutto con i giovani. Allora, per quello che riguarda questo da cui siamo partito, no? Il fondo dei film e dei materiali depositati presso l'AMOL, è chiaro che la diffusione e oggi per fortuna avendo la tecnologia digitale è molto più facile, perché io continuamente mando in giro dei link quando ci sono le iniziative sia sulla NAGPA sia su Intifada sia su un convegno di donne sui rifugiati, quello che sia, mi chiamano e io gli mando dei film come link e questo è una diffusione diciamo militante, se vuoi, l'archivio ha appunto come fondo depositato i film, ma anche c'è tutti i film, non tutti ancora stanno sul canale, nostro canale YouTube, ma se andate sul sito di AMOD e cliccate il mio nome, già vengono fuori parecchi film che uno può usufruire, no? Poi c'è altri film, io vi faccio avere anche stasera, se volete, per mail una lista dei 10 film che ho fatto con quando sono girati, chi li ha girati, chi li ha prodotti, che cosa sono i luoghi dove sono girati, quali sono i personaggi che si vedono. E con questo uno può chiedere all'archivio dei E se l'archivio non ce l'ha, me lo chiedete a me, che vi mando dei link, oppure se si vuole organizzare una rassegna, faccio come sì. Vogliamo l'invito sicuramente, eh? Questo ci fa molto piacere. Allora, a questo punto io invece ti chiederò questo: tra le tre forme, diciamo, espressive della filmografia, cioè tra un film, un documentario e uno short film, quale di queste tre forme, secondo te, rappresenta meglio la realtà e dà maggiore impatto sul pubblico? Tu dici di film palestinesi? Beh, sempre nell'ambito del film palestinese, certo, l'argomento è quello, non si esce. Cioè, tra proiettare un film, un documentario, e invece far vedere degli shorts film al pubblico, qual è secondo te quello che impatta di più nei confronti delle persone? Sì, ma dipende tu dici ora in modo generale, non in modo generale. Sì, certo, no, ma secondo me dipende molto del contesto nel quale lo fai. Cioè, come ho già detto prima, io per esempio i film li facevo sempre il più corto possibile. Sì, per avere tempo di dibattito, di confronto, no? Perché certamente se tu fai dei film, come tantissimi, soprattutto dei giovani fanno oggi, di un'ora e mezza, cioè, perché tutti sperano di entrare nel cinema, certo. Cioè, questa è una logica che chiaramente non è la mia, come avete capito, la mia logica è una molto politica e molto militante. Un po' antiquariato oggi, certamente, no? Cioè, per me, quando mi dicono che faccio i film di propaganda, come spesso mi hanno accusato, io dico sì, ma perché no? No? Cioè, io penso che avere una posizione netta è un pregio invece di oscillare. Però, a parte di questo, penso che dipende. Se tu hai la possibilità di far vedere il film a in una classe, è chiaramente forse un corto meglio o una mezz'ora meglio che un lungometraggio, ma io direi che dipende molto del contesto nel quale. Certo. Allora, a questo punto ti chiedo qual è quello che tu ritieni essere il tuo miglior film o documentario, e poi anche secondo te quale musica da film ha caratterizzato meglio i tuoi film o uno dei tuoi film che tu... Troppe domande, scusa. È difficile a dire qual è il migliore, ma io direi che quello che amo di più e anche continuo a amare dopo 40 anni e che non ha cambiato niente, cioè che c'è un messaggio universale, diciamo, è Nata della morte, Born Out of Death. Perché una cosa che Santiago Alvarez, padre cofondatore dell'Istituto di Cinema Cubano e mio grande amico e maestro, mi ha detto che non gli è mai successo, ma il film che lui avrebbe voluto fare è questo. Perché alla testa il messaggio o il cuore unito. Questo è forse quello che mi piace di più, e non so, 5-6 anni fa Qualcuno l'ha proposto a un festival a New York, al Tribeca, e c'era 10 minuti di applauso. 40 anni, sai, il film c'ha 40 anni quasi, 81. Insomma, e c'era 10 minuti di applausi, la gente piangendo, quindi evidentemente è qualcosa che va oltre i tempi, insomma. Bene, con questo uno che io amo moltissimo è un corto palestinese di Annemarie Jasser che si chiama The 20 Impossibles, che sono c'ha forse 12-15 minuti massimo, è una troupe che vuol filmare, è praticamente una cosa autobiografica, e alla fine arrestano tutti meno lei, no? È un film sull'impossibilità o la difficoltà, le mille difficoltà di fare cinema in Palestina sotto occupazione. Okay. Bene. La musica ora mi mette in imbarazzo, perché la musica che c'è in Born Out of Death, in Nata della Morte, in no, non c'è musica, ma c'è una musica che è come vissuto dell'anima, è il Dies Irae. Il Dies Irae. Bellissimo, bellissimo. Ma di musica palestinese c'è, sono tante cose bellissime, ma una canzone che amo moltissimo, che però non lo so se qui si trova, se non ti rivolgi a me te la posso mandare, è una canzone dei anni 50, 60, 60, che ho come canzone all'inizio di Children of Palestine. E si chiama Venite bambini di tutte le nazioni, venite bambini di tutti i colori, di tutte le città, venite, prendiamoci per la mano e facciamo un cerchio intorno al mondo. Kullat falal alam. Che bella immagine ci ha dato nel finale di questa trasmissione, veramente un'immagine che ci auguriamo che possa veramente avvenire prima o poi in questa terra martoriata. Esatto. Monica, noi ti ringraziamo veramente di cuore, è stato bellissimo parlare con te, delle tue esperienze, del tuo vissuto, e ci auguriamo e speriamo di ricontattarci di nuovo per averti di nuovo in un'altra trasmissione, se te sarai disponibile sempre. Grazie. Beh, grazie a voi di cuore, grazie a voi. Ciao, e Monica, ciao, grazie. Che questo è un input di portarci un passo più avanti verso un archivio nazionale di cinema palestinese. Sì, ce l'auguriamo proprio. Davvero. Ce l'auguriamo proprio e cercheremo di trasmettere questo tuo messaggio sicuramente. Che bene. Non è solo un mio messaggio, ma siamo un gruppo, non nel senso organizzato, ma siamo un contesto, diciamo, di una decina di registi e una archivista, insomma, di intellettuali palestinesi che cerchiamo tutti a lavorare in questa direzione insieme a finalmente farcela, a fare un sogno e una necessità, secondo me, emergenza, una realtà. Emergenza, ora poi. Bene, allora buon proseguimento nel vostro bel lavoro, che abbia un buon successo e un futuro. Ciao Monica. Grazie. Grazie. Ciao. Concludiamo questa trasmissione sulle note del Dies Irae di Mozart, augurandoci che il progetto di Monica Maurer e dei suoi collaboratori per la realizzazione di un archivio nazionale del cinema palestinese possa vedere al più presto la luce. Ci auguriamo con questo di aver dato anche noi, con la nostra trasmissione, un piccolo contributo. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle 17:30. Inshallah!